soli quando scoppiettano. Ma bellissimo come effetto. È da proprio che si gufi non fugge, sono troppo belle. Anche un peccato usarle per il baracchino queste cuffie. Aspetta, prova un attimino invece a tornare, aspetta, a tornare indietro e andare. Puoi andare sul, aspetta, il numero Space Shuttle Onboard Audio, sarebbe il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo, dove si vedono i caschi dei piloti, che si è dentro la cabina di pilotaggio, blu. Si ha disastrato tutto, proprio lì da blu. Da micidiale, proprio sono in una cabina di 500, sembrano, ma tu devi vedere le facce quando proprio parte micidiale. E adesso lo vediamo. Quando detti il nome, me lo riscrivo anch'io, aspetta che sto entrando. Immaginati che c'erano talmente tante videocamere all'interno, sicuramente quelli della NASA quando è esploso per ben due volte li hanno visti, cioè le immagini ce le hanno. Beh certo, ma mica le fanno vedere gli altri. Vado a vivere, Antonio. Pace Space Shuttle Audio, devi dire Space Shuttle, con scritto S-H-U-T-T-L-E Audio. Ora, prestamelo piano piano che io lo scrivo, perché non è che l'inglese è solo molto, molto pratico. E te lo devo ridettare? Piano piano, GH per non sbagliare. Allora, Sierra, Papa, sì, Alfa, Charlie, Echo, Sierra, Hotel, Uniform, Tango, Tango, L non mi ricordo come si dice, e prima lì. Già l'hai culo, se non me lo dici in cazzo, non me lo dici dentro la lettera, io come faccio? Allora, S-P-A-C-E, quindi Space, Sassari, Palermo, Ancona, Como, Empoli, Sassari, Hotel, U come Uniform, Torino, Torino, ci sei, L come Livorno, E come Empoli, quindi Space Shuttle Audio. Vabbè, lasciamo perdere, sennò perdo la pazienza. Tu, come vuoi che te lo dica? Vuoi che te lo ripeta? S, P, A, C, E. Te lo ripeto. S, P, A, C, E. S, H, U, T, T, L, E. Te lo ripeto. S, H, U, T, T, L, E. Audio. Dimmelo a me in fretta. Allora, quello lì vai per vedere quello dei cosi, sempre nello stesso coso che ti ho detto, però scendi al numero 7 e vedi proprio loro di spalle, ci sono i piloti di spalle dentro la cabina. Quando apri quello, ce ne sono vari che ti appaiono sulla destra, prima guardati quello lì, poi ti guardi tutti gli altri, che sono degli altri lanci, e ce n'è qualcuno che è anche un attimino più in alta definizione. Ma tu devi vedere proprio la tremolella che gli viene quando partono, micidiale. Deve essere una stretta a culo veramente a basta. Vabbè, gli altri lì, mi sa che velocità sostengo. Ascolta, ripetimi Space, cosa devo scrivere? S? Space, Shuttle. Space, Shuttle, quindi Space, come lo sto dicendo, e poi Shuttle è scritto T-T-L-E, audio. Dove c'è scritto Lego Space Shuttle spedito verso lo spazio? No, Space Shuttle Onboard Enhancer Audio. Il settimo filmato che ti appare nella pagina. Scusate un attimino che sto prendendo una cosa e riprendo su. Eccolo. A tu. Ehi. Ehi. Io ho contatto 1, 2, 3. 4, 5, 6, S, e qua c'è Space Shuttle Atlantic Long Lift Off 2011. No, no, no, no. Scusa. scusa, cosa hai messo come ricerca? Space Shuttle Audio. Tu metti Space Shuttle Audio per forza di cose ti appare 1, 2, 3, 4, 5 al sesto posto. Al sesto posto c'è il coso Space Shuttle on board. Se non lo scrivi Space Shuttle come te l'ho detto, on board si scrive on come te lo sto dicendo, board. On board camera. Appa. Il primo? Appa, anche. Fabrizio, guardate un attimo che sono ancora lì, sono un attimino. Che lo sto guardando? Fabrizio, sì. Fabrizio. Tutti muti, sì. Hola. Hola. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che grodi. Hola. Hola. 1, 2, 3, prova, prova. Hola, hola, hola. Hola, hola. Antonio Europa, ci sei. Claudio. Magnadua. Sì. Paga, pa. Andavo. Non esci stasera. Non esco la sera. No, stanotte non esci. Perché quante volte mi hai visto uscire? Boh, sabato, siccome domani è festa, per quello te lo sto dicendo. Per te è festa, non per me. Ah, vabbè, non lo sapevo. Ormai non c'è neanche festa io. Sono sempre di turno. Tutti festivi. Perché? Non può fare, non posso far girare, scusa. Assolutamente no, poveretto, non c'è più quello che cambiava il turno con me. Questi non scherzano, e allora momentaneamente mi hanno dato l'incarico a me. Scherzano? No, ma noi per dire chi fa la domenica, ci fanno due domeniche a testa e fanno girare. E vabbè, se c'è chi lo può fare, no? L'incarico che ho io momentaneamente non è, non c'è copertura. Gappa gappa, cosa se ne è andato? Non l'hanno mandato. Ah, se l'hanno mandato? Sì, ha fatto un errore. Dopo l'azienda ha pagato una multa alla forestale di 10.000 euro. Ai ai ai. Lavoro nostro è... è un po' un lavoro di molta attenzione, devi stare molto molto attento, o lo sai fare o altrimenti è un casino. E come tutti dal buio, li sai fare o meglio che te ne stai da parte? È normale. E il tuo come tanti altri. Io ho assistito per una scintilla fatta da una truccatrice. È arrivata la scintilla sull'erba, ha messo fuoco, non so se 3.000 ettari di terreno. Vicino a cosa? Come si chiama? Ah, Santa Maria la Palma, in quella zona lì. Ci sono stato nel, se mi ricordo, in che anno, forse 2007-2008, sono tre attenti già, non è così, ognuno ha il suo incarico, ognuno deve stare attento al proprio lavoro, io con lui lo praticamente prendevo per mano, perché era molto disattento, molto, quando suo, senza ascoltare chi ne sa più di lui, chi c'è prima di lui e chi soprattutto è responsabile di quella zona. Poi se ne assumo le conseguenze. Adesso l'ho mandato all'impianto di sorso, non c'è macchina, non c'è niente, deve viaggiare per i fatti suoi, perché tra l'altro non c'è manco patente, che li hanno portato via per un incidente, a tagliare erba e a verniciare. Pulizia ora. È raro, ma non maestro. Perseverare diabolico, diceva quello. Ma lui non è la prima volta. È già un po' di volte che non riesce a capire che questo lavoro, ti ripeto, è un lavoro di molta attenzione. Sono manovre molto, molto importanti per l'ecologia, per l'ambiente, quindi, ti ripeto, o lo sai fare, o se non lo sai fare, chiedi, siccome lui non ascolta neanche i consigli di chi ne sa più di lui, perché lo posso dire tranquillamente che manco metà di quello che so fare io sa fare, nonostante gli abbiano dato un incarico simile al mio, quindi a sostituire a me quando io non ci sono, però non l'ha saputo sfruttare l'occasione, allora ciccio. Vabbè, ce ne sono che si danno aria anche da noi, entrano per un paio di mesi, pare che c'ha dei padroni, dice qualcosa e se ne fregano, ma chi se ne frega, a un certo punto quando tu ti accorgi che sono così, basta lasciarli in una bagnasuia, quando sbagliano pagano. Quelle sono le persone che hanno la cosa popea nei confronti degli altri, capisci? E poi valgono meno di zero. Ti ripeto, ognuno c'ha il suo di lavoro e io sono entrato nel 97, quindi sono cresciuto piano piano, affiancato a persone superiori e quindi mi sono creato la mia posizione. Lui aveva l'opportunità, perché non è stupido, di poter avanzare piano piano, ma invece di avanzare è caduto a testa a terra. Beh, è lui che ci ha voluto sbattere. No, già, se non ascolta, è chiaro che prima o poi ti sbatti. È chiaro, io quando ti ripeto, mi sostituiva, stavo sempre col cuore in gola, capito? Telefonavo, stai attento, fai così, fai qua. L'ultima stava piovendo, capito? Come chi non mi bagno quando sta piovendo, già ti credi che se devo fare una misurazione, se devo fare una manovra, non la faccio lo stesso, ti metti la capotina e la fai. Quindi non è un problema, la conduzione degli impianti ce l'hai tu e quindi sei tu che gestisci, senza invece di fare la manovra giusta ne ha fatto una sbagliata e in più ha avvisato anche il responsabile, almeno stai zitto, parla prima con me, invece di parlare con me ha parlato con il finente di turno, quello dopo che si è andato lui è andato a vedere l'impianto, stava trascimando e c'era già la forestale, ecco lì gli ha preso il culatto. Beh, è normale che quello è inquinamento, quindi è normale che intervenga. Sì, la paga, adesso è lì, adesso bisogna vedere lo stipendio, che cosa prende, se le danno il 50%, non lo so, mi ha già chiamato, io non posso fare più niente, io quello che devo fare l'ho fatto per un anno e più, di copertura, di consigli, di cose, l'ho sempre, te l'ho detto, preso per mano, però quando uno è più turco della brida, allora alla fin fine c'hai 50 anni, arrangiati, fai quello che vuoi. Oh, no, c'è gente che è convinta, anche se non ha esperienza, di saper fare meglio di te, quindi continuano a fare a testa loro. Bisogna essere anche umili nella vita e pensare che c'è sempre qualcuno che ne sa più di te. E se quel qualcuno ti dà un consiglio, non lo fa certo per male, ma per il bene tuo, perché di modo che tu, quando ti troverai solo, saprai fare le cose come si devono fare. Se poi tu fai a cabotoio, quando dà c'è per la giura, dà c'è per i casini, anche non è compreso nulla. Infatti, quelle lì sono quelle persone. Ma poi adesso c'è il problema principale, che a fine di quest'anno c'è l'internalizzazione, quindi la mamma se ne prende gli impianti e lui rimane fuori. Perché con un richiamo del genere la casa madre non vede neanche l'ora di sentirti sicuro. Quindi ho perso due volte. Quelli sono punti in meno, Di meno non c'è stato più lui. Lui come. Perché adesso la multinazionale non lo può buttare fuori. Però come termina praticamente la gestione della multinazionale a fine anno, che vanno a riprendere i pianti, lui non ha finito. Perché a Banoscia si deve riprendere tutto? Sì, fanno una gestione unica. E lui si torna di una pesci. Tu devi dovranno riassorbire una Banoa. Io non sono mai fitto, questa è una gestione consociata, sempre a convenzione regionale, quindi io non sono mai fitto. Sono sempre all'interno perché avevo fatto il concorso. Lui invece no. Pensavo che ti avessero fatto un passaggio, eccetera, eccetera, da una ditta all'altra. Questa non è una ditta, Gianni, questa è consociata. Sono tutte e due convenzioni regionali. Questa non è una ditta, non è un appalto questa. È una separazione praticamente di conduzione. Una gestisce il bianco, una gestisce il nero. Questa c'ha il 40% delle azioni, figurati che c'è una. Ne ha il 20%, tutto detto dalla regione, quindi ha più quote questa che la casa madre, così chiamata, ex-ESAF. Quindi adesso, al momento in cui internalizzano, ci sarà un nome unico, però all'interno ci sarà anche la multinazionale. Comunque a Volontosi hanno finito e hanno riaperto il tratto che era chiuso a partire da Monino, da lì fino ad arrivare giù a Cristallo. E cosa è servito? Adesso sai cosa succede con la pavimentazione, che in giro di pochi anni è tutta disintegrata. Speriamo che abbiamo fatto un buon lavoro, perché anch'io ho pensato la stessa cosa, chissà se sono riusciti a rimettere le cose come erano, eccetera, eccetera. A Sassa gli hanno segnato, hanno messo i numeri in questi corduri antichi che c'erano, hanno messo il numero, li hanno tutti numerati. Sì, però si abbassano già, lì no, lì il traffico non doveva camminare, lì si abbassano col peso, con i vetri che vanno al porto, eccetera, eccetera, perché i vetri non passano, però anche i furgoni, per scaricare, per fare. Prima o poi c'è quelle pietre, capito? Ed è un casino. Ma non sai cosa c'è, che per dire, oggi è arrivata una nave di quelle da crociera, hanno sbarcato un bel di spagnoli, c'era Portatore che era in fase di questi spagnoli, e poi alle due ripartiva. E ho visto che tutta la gente, sì che c'era lavoro in corso e cose, nessuno passava in chi, mi dico la verità, nemmeno io ci arrivavo, dovevo fare il giro. Ho visto molta gente che stava girando i negozi, insomma, qualche soldino in quelle poche ore si racimola e c'è poco da fare. Ci dovrebbe essere qualche cosa, qualche centro per diciamo, per attivare l'attenzione, eccetera, eccetera, tipo il museo, delle segnaletiche che segnalano dove c'è il museo, dove c'è San Gavino, dal porto e cose, di modo che il turista adesso per me, stamattina mi si è fermato questo inglese e mi ha fatto vedere via Sassari nella cartina e mi ha detto dove, e gliel'ho dovuto spiegare così, io inglese non ne parlo, quindi gliel'ho l'ha capito, ha detto yes, yes, e poi mi ha ringraziato, mi ha detto grazie in italiano, e niente, ce ne sono turisti, io ho cercato San Gavino molte volte, gli ho dedicato un bel di volte, una volta ne ho accompagnato una sino alla chiesa, mi ha chiesto dove, erano in macchina, mi ha detto mettete a presso a me, li accompagnati sino, e non finiva più di ringraziarmi, erano delle belle ragazze. Dove è attaccato la nave, questa nave, la crociera? All'Asi, Somolo, no, non all'Asi, a Somolo Cattaneo. Ah, perché ancora non è terminato, non sono terminati i lavori lì da... Somolo Cattaneo, attaccato, dove attacca anche la Tirrenia. Cioè la Tirrenia era avanti e la nave, la crociera dietro, il cazzo aveva pochi... di piani, c'erano tutti quanti, tutte le finestre si vedevano, avrà avuto un, penso 7 o 8 piani, tutte quelle finestre, cavolo, roba bella, grande. Anche schettino c'era? No, no, quella lì non era di Costa Crociere, era una nave, era una nave sicuramente spagnola, perché aspetta, cosa c'era scritto, crociere, e poi c'erano degli uomini grandi grandi disegnati nella nave. È buono. E la casa è affondata, ciao. Ciao Frank, buonasera, ciao anche Antonio. Cos'è Frank? Non mi sarebbe dispiaciuto se ci fosse stato tutto il Parlamento a affondare prima che toccasse il molo, sicuramente. Avanti fa, dai fiducia da Valia. Non era Franco, l'altro chi era, Antonio? Grubi. Gaba, ero io, siamo. Aspetta un secondo che vengo subito, tre ore esitene. Stavo mangiando già, scusami, ma mi hanno chiamato, sono andato a prendere una cosa, poi mi hanno chiamato e quindi non ho avuto il tempo di venire qua a comunicarvelo. Ho preso il tuo vizio, questo grobbega, quello lì non riesce a passarle. Sì, ne ho tanti di quelli che non riescono a passarmi. Io dico qua in radio, con l'accento, qua in radio, che buon, è un buon comportamento avvisare, vado a fare carica, mi assento, faccio bianco, quello è un comportamento, diciamo, che si usa in radio. Dopo un fargli il bambino, è vero che si è abituato anche lui a rispettare le regole. Da voi, Paperetta? Non capito, già detto Fabrizio. È una cagata, deve aver detto, infatti gli ho chiesto come la vuole, Paperetta, la carta igienica. Io ho detto che buona usanza usare queste cose. Vabbè, già si usa, già si usa. All'altro chi è Franco, la sorsa, tu sei Franco. Chi è che parla e non risponde già? Tu? Perché stai facendo l'origlione, Fabri? Cosa stai facendo? Sto andando su un baracchino. Non ho capito, se hai detto stai? Mi sono fatto un baracchino. Fabri, io ti consiglio di aprire il laboratorio. Sì, se mi licenzi anche quello lo devo fare. E ma se ti licenzi? Non credo ancora. Non si riparla. L'arbitro si sa mai come sta andando il mercato. Sì, vabbè, quello lì è un rischio che corrono tutti, meglio non pensarci, è un rischio che corrono tutti, Fabri. Non è uno perché c'è tanti anni che non rischia, e rischia come gli altri. Anzi, pesi di più perché devono pagare più contributi, quindi sei un primo che si chiude di voi. Fabri, non c'è problema, vieni con noi. Stanno cercando elettromeccanici, quindi cosa ti affrutti? Fai il giornaliero, tranquillo, senza problemi. Insomma, non sei cosa la mia cosa, che se sono arrivato a vedere lì, mi tocca, noi tutti iniziare a lavorare veramente, nel senso che non concorrai, mi tocca riprendere tutto in mano, non abbui di parlare di alimentare. Lo so, anch'io ho fatto lo stesso passo, quello che guadagno oggi lo guadagniamo nel 90 o nel 98. Quindi, perciò purtroppo è così, quando si inizia va tutto bene, soldi a destra e a sinistra, adesso il lavoro è aumentato, lo stipendio però è abbassato, quindi così mi va, purtroppo è così, tu fai il tuo lavoro da turnista, io lo faccio da giornaliero, ho incarichi abbastanza elevati perché c'ho grande rottura di palle e quindi per di loro mi dai idee, quindi purtroppo è così. Lo so, l'intaccia sempre poi continuiamo a vivere così, quando non si può più. Comunque, il prossimo fine settimana, vabbè, se non sto lavorando, credo che lavora, ma la prossima volta non sto lavorando, vengo e ti faccio vedere una cosa, vengo in casa e segni con la macchina senza cappotta. Ma te la devo fare dire, quella gialla. Ehi, a Cagogli ho fatto la sigla immatricolata, che ha fatto la sigla che non è oggi. Ma quella faccia a prendermi, questa è proprio bella. Andiamo, faccio il giretto. Di pronto, capisci al vento, facciamo i figli, cacchio. Facciamo un bel figli con quella. Come va? Poi io ci ho fatto riassicurato gli ultimi momenti, ho fatto quella moto blu, quella del 62 e il duetto. Ho speso, mi sembra, 29 euro per la moto. Perdo 5-6 metri assicurati, no, con un punto storico. E 69 per la macchina. Infatti, ti ho detto, è così, mi ricordo in cosvento, mi dici, è una ciclo d'epoca, che tanto, per quello che la usa la macchina, perciò è salata in garage, adesso mi sto usando la smart, poi si vedrà, poi ritornerò a fare il cambio, poi qui, poi là, rotterò il palle, no, c'è niente da fare, no. Io sono libero sabato e domenica, ho già detto che non ci vado, non me ne affrutti nulla, si arrangia, anche se non c'è nessuno, io sino a venerdì lavoro, poi sabato e domenica me ne sto a casa, e quindi se vuoi passare a prendermi non ci sono problemi, niente, la volete, il amplificatore l'ho mandato a Cagliari da Roberto, se mi ricordo te lo dico, avanti grotte. Ma comunque non è più così semplice entrare all'ASI, se non hai all'ASI non adesso non si chiama ASI, come si chiama? Quello, l'associazione che raduna le macchine d'epoca, perché proprio perché molti facevano così, si prendevano uno scassone e dopodiché lo assicuravano come macchina d'epoca perché aveva superato i 20 anni. Adesso devi fargli tutta una serie di foto, dopodiché passano al vaglio di una commissione e allora l'accettano più o meno. Ma la tua d'epoca? Guarda, la mia no. Gli mancano. Ma quindi? Quanti anni ne mancano? 8, ci vogliono 20 anni. Non mancano? Di 5. Guarda, cambiamo un po' di cose perché la gente ne ha approfittato, ma la colpa sono dei nostri club che hanno la loro. visto di tutto, scassoni, insomma, chissà perché Asi, siccome Asi si chiama anche il consorzio che gestisce il molo di Porto Torres, pensavo di aver detto il nome sbagliato. Non solo il molo di Porto Torres. Già, adesso non ricordo bene, ci lavora tuo fratello, mi avevi detto, no? Io, e il consorzio Sassari Porto Torres Alghero. Qui sicuramente, sai, io sicuramente lo conosco di vista, com'è che si chiama di nome? Antonello. Un profilo Facebook ce l'ha? No, no, assolutamente. Nelle mie foto, se c'è ancora, non so se si può entrare comunque, c'è una foto di compleanno quando ho fatto 50 anni ed è a fianco a me. È uguale a me, no? Un po' più la faccia, meno cicciola della via ce l'ha, ma più o meno siamo uguali. Io con la foto l'ho vista. Dove tu ce lo conosci a mio fratello? Ma non sapevo che era tuo fratello. Viene spesso lì a Granai. Abita. Quello di Piaschiera che ci sono entrate i sas di Porto Torres, quelle che danno poi su via Piemonte, capito? E quella dell'Ena? Yeah. Allora, ci ho capito, lì c'è uno che c'ha una, non so se l'ho mai visto, cazzo fa ridere, ha una percorsa tra Gigillata, pastorali, di quelle con la marmitta grossa, la coda di volpe, dentro c'ha tre o quattro portatelefono, peggio di quella di Barrarnicola, c'ha parte da tutte le parti, non c'è manco dove muoverti, contagiri, di tutto. Io ho capito. Fabrizio, come lo ascolti a Gianni? Perché? Non lo senti Saturino? Vieni avanti già. Prova, 1, 2, 3, 4. Sì, leggermente. Appena. Sì. Adesso abbasso, voglio vedere un pochettino. Aspetta. Se così c'è che sacra. Vai, caricati. Prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ricordo la città del Carrasco con la buonasera circolare. Avanti. Buonasera Gianni, ciao Claudio, buonasera Fabrizio. Buonasera a te. Ma standard mio hermano. Sei compresso caro. Ti ha perché ho preso l'aspirina. Ah, ecco, va bene. Ok. Oh Sandro. Buonasera Conde. Conde, tutto bene? Non, invariata la cosa? Lascia perdere. No. Oh, ti ha risposto? Lui. Niente. Beh, non provi a fargliela una senza numero. No, io adesso vediamo. Facciamo passare il 25 aprile e poi proviamo, non trova più. Vabbè, va. Ma già te l'avevo predetta la cosa, dai. Ok, dai. Vabbè, comunque. Ma mi piacerebbe anche vederlo faccia a faccia. Che cosa ti vuoi fare? Due risate? No, per carità. Ehi, ohia. Cazzo, se per quello, cazzo, perché lui l'avevo visto. Ohia. No, giustamente due paroline in faccia, così, dal naturale. Aspetta un attimino che guardo se c'è su Facebook e te lo dico, se c'è un computer vicino te lo guardi. Sì, ma guarda che non mi interessa, Non lo so, questo non lo so, questo dipende dai gusti. Beh, vabbè, Claudio, dica. Dica, e cosa lo devo dire? Niente, solito pantano. Un secolo di bianco per me. Questo sembra chiaro Gianni. finito di riposare giù nel festo oramai. Ci verrà giù a 15. Ok, dai. Va bene, va bene, va bene. Ok, festa, sì, sì. Ma che fischia è proprio. Cazzo, mi sta tirando la gamba, qua. Come mai? Ehi, come mai? La moto, conseguenze della moto. Io sono una settimana con la cervicale che no, non sono mai stato così, proprio tre sere, devo prendere la medicina, mi ha dato delle bustine ortopediche, antinfiammatorie, ma mi sta distruggendo ancora di più, c'ho la protezione, però sto mangiando molto poco, lavorando come cani, speriamo che passi sto cacchio di perturbazione, tempo brutto, anche oggi stava piovendo, quindi l'umidità mi uscire ancora di più. E niente, il lavoro sta andando a uffa, nel senso che c'è un po' di cose da fare e perciò sono sempre impegnato, non ci sono feste. Pensavo di salvarmela, invece ho lavorato a Pasquetta, 25 aprile, la buia deve dire la butta vaga, le sono sette in più. Lo so, purtroppo già lo sai benissimo, starei facendo dei sacrifici, perché starei facendo dei grandi sacrifici, però renditi conto che sono tempi di cacca, capito? Tempi di cacca, e quindi bisogna stringere i denti, tu mi dirai, cazzo, ma per quanto mi devo stringere questi cazzo di denti, però insomma, capisci che oggi chi c'ha un lavoro si può rendere anche fortunato, capito? Tutto lì. Si conferma, e vabbè, però si potrebbe avere molto di più, non è che mi posso lamentare più di tanto. Comunque il lavoro che sto facendo tutti i giorni e portandomi anche a casa, perché non riesco a compilarmi manco i registri di conduzione, si potrebbe fare di più, invece quello è e basta. Nonostante protesti, fai, quello è straordinario, ne fai 10 ore e te ne pagano 5, vabbè, pazienza, l'importante è che si tiri avanti, che a casa non manchi niente, che le soddisfazioni sono a rilento, quest'anno sono molto a rilento, ho avuto un sacco di spese, quindi si viaggia a norma di legge, come si dice. Vabbè, pazienza, avanti che rode. Scappa un attimino di Querex per me, che ho una passa. Bene, ok, va bene, ok. Ma dimmi una cosa, Cla, allora, San Giovanni, stazione ferroviaria San Giovanni, ce l'hai presente? Sì. Dove sono i binari, dietro c'è un... dietro la stazione mi sembra che c'è un... cos'è? Un sollevamento, pompaggio, cosa c'è? E ho visto questi due tipi in tutta rossa con la scritta Sciona. Cazzo, ci avete anche le 500 nere? Sì, 5 mi pare c'è le 500 nere nuove. Poi ci sono una quindicina di punto bianche, gran punto bianche, e i soliti fiorini, quelli rossi. Ma è capo, ma perché ho visto questi due, questa 500 nera, gente, cazzo, ma infatti dopo uno dei due, tipo passottino, un po' cicciottello, infatti ho visto dalla tuta, con la scritta, ho detto, ah, chi se lo più mandrone che vuoi, cazzo. No, però una volta mi hanno mandato la mia squadra, pare sia durato 3 giorni, se sto uscendo soprattutto. Sandro! Lo stai uscendo, ti fai sentire. Ti fai sentire sempre non. Diciamo. Ho sono problemi. È tutto lì, dai. Ma la situazione a Fiume Santo com'è? E così, sempre uguale, quello che leggi, sempre uguale. Facendo, muovendoci, vediamo un attimino come procederanno le cose, dai. Per il momento tace, siamo lì, per il momento, poi vediamo. Ok, dai, va bene allora, dai, si tira avanti allora, bravo, non c'è nessun altro? Io sono entrato. Claudio, dimmi come sto uscendo. Signore, il tuo, la radio è una radio normale. Va bene, attesa. C'è un Midran 48 che ho messo a posto, lo stavo provando. Ma quello di Sandro è tornato di là? No, ce l'ho sempre qua, l'ho richiuso e ogni tanto viene in mente di rimettere di mano, però stavo controllando, ma l'altro giorno mi è stato giovedì passando, l'ho dimenticato, poi anche loro perché non c'ho molto spazio qua. Credo che abbia non solo problemi sulla scheda di alimentazione, perché lì ci ho fatto già qualcosa, non va più in trasmissione di continuo, non si accende il display, se collego un filettino dentro tende a non far recitare un relè, quindi credo che ci sia anche un problema su un altro aspetto sulla scheda, poi casino, stavo lavorando ma ci hanno lavorato un bel su quella, cioè ci hanno fatto modifiche, non riesco a capire, nemmeno perché hanno fatto dei punti, hanno fatto cose strane, dai. Se non hai spazio di lasciando, lo porti qui, poi quando passa Sandro se lo prende, se ti dà fastidio lì, io già ne ho più di 3 spazio qua. Non c'è problema, c'è anche quello di cosa che deve passare a prenderselo. Sa, se non lo ripara o non riesce, farlo portare qua, poi passi e te lo prendi, ma non c'è da sassi. Sì, va anche bene così, Fabri. Sì, ma te l'avevo già detto in partenza, di non perderci, di non stare lì a perderci tempo più di tanto, perché intanto ormai quello lì, diciamo, il suo destino è andato come è andato, quindi diciamo non ne vale neanche più la pena. Rifuglimi, lo metteremo in vetrina così a bella vista, se poi magari capita qualcuno che le può servire magari qualche pezzo o qualcosa, va bene, se no lo lasciamo così in vetrina. E anche perché sai il problema qual è? Il problema di quella radio che è tutta stata toccata, cioè tu non ti dice no, stavo modulando oppure l'ho spento, l'ho riaccesa, non accende più, è un problema di alimentazione, stavo modulando, non riceve più, non trasmette più di colpo, oppure ho fatto questa manovra, ho fatto un corto, oppure mi dici guarda che c'erano stazionarie, più o meno dici ok, stazionarie, fu tutti i finali, un corto, è un problema sulla corrente, stavo ricevendo qualche sberla cazzo sul ricevitore, ok no, te la metti sul banco, gli metti un segnale dentro, lo segui sino dove lo trovi, tac, ok, arrivi sino lì, ok, sino a qui va bene, da qui è partito, ok, iniziamo a controllare, capito? Ma quando inizi a dire guarda, io cazzo che dico, forse c'è da cambiare quello, adesso cambia quello, forse poi è tutta ponticellata, tutta saldato contro saldato, dice perché cazzo, cioè cosa assurda, dice cazzo non ne capi i piedi, capito? Cioè teoricamente tutto si può fare, teoricamente, proprio praticamente è quasi impossibile. No, ma te l'avevo già detto, te l'avevo già detto di non starci lì a perdere più di tanto, perché ormai sapevo che è arrivato a un dunque quell'apparato, ormai diciamo il suo percorso l'ha già fatto, ma io per dire così giusto per saperlo e così via, perché quell'apparato l'aveva diciamo allineato lì Carlo Bianconi, l'avevo chiamato e le avevo spiegato diciamo la situazione com'era, perché in effetti io è successo che lo stavo usando, l'ho spento, l'ho messo da parte, dopo circa un mese capito. Sì, no, ma tutto è possibile, però voglio dire, se io fossi stato sicuro, no, che non l'ha toccato nessuno, invece ci hanno messo mano, poi non so se è bene né male, per carità, ma fossi stato sicuro che era solo sulla scheda di alimentazione, sulla scheda finali, per capire, no? Ci avrei lavorato, perché è molto simile, la scheda, l'avrei pensato, guarda, l'avrei fatta in mille pezzi, proprio smontata completamente, l'avrei tutta ripulita, l'avrei montato componente per componente, controllato componente, per cui non solo, cambiato bobine, ricostruito, l'avrei montata e avrebbe riparito la radio. Ma magari ci metto, perché io mi diverto anche, ogni 10 ci metto 5 euro oggi, 5 euro domani, 2 euro, e io mi diverto pure, e la faccio pure, ricostruisci quella scheda, la monti, e poi c'è pure una problema magari da un'altra parte sulla scheda RF, io credo che ci siano i problemi anche da quanto ho visto, però ho provato a alimentarla singolarmente, lo stesso non alimenta, non mi fa agitare un relè, per capirsi, no? Quindi dici, adesso capito cosa ti voglio dire? Sì, ma guarda, logicamente sono è una radio come tante altre che ha gli anni che ha so quella radio lì. Diciamo che la prima radio che io ho avuto di quel genere lì, e io ti parlo degli anni 80, capito? Anni 80, quindi che cosa vogliamo pretendere? Cioè, non è che possiamo pretendere, cazzo, cioè, che duri un'eternità, logicamente i componenti, tutto il suo messo insieme, hanno fatto fin troppo, capito? Quindi diciamo, non è che possiamo pretendere di andare a pretendere a spenderci soldi per giusto qualche cosa, che poi magari sei di nuovo a rischio perché i componenti ormai sono quelli che sono. Io a questo momento io ho già guardato, visto che ho detto se no se questa cosa non avremmo fatto non c'era problema. Comunque la cosa adesso sono qua per chiudere, sto cercando che faccio apparecchio, una cosa che volevo chiedere, che non ha chiesto la cortesia, scusa se ho prima dei dimentico, però un po' voglio chiudere perché mi voglio andare un po' sul divano domani alle 5 e mezzo, mi devo alzare che devo lavorare. Mi avevi chiesto su quel coso, avevi chiesto il partitore. Sì, partitore per l'antenna. Il commutatore dell'antenna? Sì, il commutatore dell'antenna, sì, la commutatore, partitore, commutatore, sì. Beh, ce l'hai. No, se ti interessa Ho già detto a Fabrizio, dai. Vabbè, perché c'è poco spazio, bisogna baciare la radio, capito? Tanto se non la vedo a riparare. Te l'appoggio qua, poi quando passi te la prendi. Gianni, o più lo mi riprendi. Gianni. Però è in quell'X, ma Gianni non c'è più. Ci sono, adesso ti collego che stavo dando a posto, tanto ormai è detto, è diventato, se lo vuol dire, la seconda gran vita in più questo capo di colare. No, già ci sono, non trovo il microfono. Ho capito già. Non trovavo il microfono, l'avevo messo appoggiato al portamicrofono, mi sembrava che era sul letto, lo stavo cercando sul letto e non lo trovavo, corrispondo. Ma non è stata sbunizzata che in chi su protezione trova? Ma non l'avete trovato poco fa questa radio, sta rosato così. L'ho provato, se poi magari scaldandolo ha cambiato. Non c'è problema, ma quando attaccavi prima, poco fa non è arrivato, si è andato a 9,25, a 9,40, ma non saturava. Ma vabbè, lo lasciamo così. Spegnete i baracchini, che non è ora di modulare. Mamma mia, che è piatta, io fatevi un correttivo. E lui è cagottolo perché domani è a riposo, si gratta le balle, capito? Circa che avete ascoltato, adesso andrò a rompere le scatole. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Dio, ciao. Ben entrato. Mi sa che sono l'unico che lavora, io no, anche Fabrizio domani di tutto. Domani a quell'uccio, mi raccomando, sappiate ci siamo io e Fabrizio di turno domani. Anche io dovevo, ma diciamo che abbiamo scivolato perché non era così urgente, abbiamo preferito mollare, però anche io devo seguirvi. Va bene, io invece devo per forza andare. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Già, vai il tuo mistero, non ho capito. C'è poi mi interesse. Ma non so se hai cambiato amplificatore o già sei come me, io non ti capisco. 5 minuti sei un segnale, poi cambi, poi sei altro, poi dorra, c'è il gubbio già lì, avanti il gubbio nuda, io tutti gli amplificatori che c'è non saturano mai, io dal DV131 a quello della Iaesu, all'altro che c'ho, al G27B, ne ho 4 gli amplificatori, più quello che sta mettendo a posto Roberto. Quindi non so cosa si ducchemmi, ma comunque, una volta che io sono tarati, tanto non cambia niente, ricorda tu, ti porta via solo la modulazione, perché il tuo segnale è sempre quello, arrivi a 40 e si ferma, quindi è bello avere la modulazione, bella forte con un segnale in più, ma non c'è manuta, ti crea solo problemi e basta. E beh Fabri, allora? Controllando, no, c'è qualcosa che mi sfortuna sulle... c'è qualcosa che mi sfortuna sulle connessioni. Abbiamo detto che non siano tutti PL, capito? Adesso sto guardando altro, però questo di più, però questo è bello, all'interno un po' di soldi che non costa. Questo c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... questo è 2 kW con un totale di antenna 6V 2 kW 1, 2, 3, 4, 5, 6 più con fitta per ingrandire, quindi sono tutta la parte più veloce 6, 2 kW questo. A me mi serve 1 e essere a rischio, invece se c'è 2 kW lo porti bene, non ci sono problemi. Comunque controlla, l'importante sia di marca buona, non ordinare Beta G, non ordinare Inter, che non ne voglio mondezza io, voglio roba professionale. Guarda se c'è Diamond, Revex, anche quello della Proxer è molto buono, ma roba professionale. Giocattoli no, non li voglio io. Avanti Tino. Beh, fate, fate. Che qua state solo alzando, io sono più basso. Tanto, cosa stiamo alzando? Io sto andando con i fatti dell'apparato, non ho bisogno di lineare intanto, che cosa l'attacchi a fare? Da 100 a 200, cosa cambia? Sono con 100 watt pieni dell'850, anzi, c'è un picchiere a 120-130 watt. Ecco perché, infatti ce n'è uno buono della lavori. E quindi sto preparando, ho già preparato l'ispezione di H100, li ho già preparati con i PL, quelli buoni, Amphenol, in modo che non abbia nessun problema. Capito? E fa un bel attento in questi cosi. Doppio rutto, ripeti. Gianni. Eita. Dove me ne dici? No. Ripeti, ripeti. È che questo cacchio microfono l'ha appoggiato da le parti e prendo l'altro, prendo... Siccome ho tre microfoni appesi, quindi ogni tanto sbaglio il microfono. Ma bisogna che lo faccio girare di nuovo, adesso mi sta preoccupando. Mi sta preoccupando, sì, che quando scendo in campagna lo lascio acceso, una mezz'oretta o che cosa, però bisogna che lo faccio girare di nuovo, perché sennò va a finire che quello lì lo butto via. Ma in campagna antenna ne hai o cosa? No, e in campagna avevo smontato tutto. Avevo piazzato questa che c'ho qua, però in campagna non c'ho niente. Non c'ho niente, no, avevo smontato tutto e poi la manta me l'avevo piazzata qua. Sì, perché sennò va a finire che quello lì ce l'ho molto chiaro. Guarda, quello che ho comprato io è nuovissimo, eccezionale, veramente. È un, come pare che sia un RKV, questo qua è un, al contrario, SSVR 707, la sigla è, ed è uguale a quello, preciso, così come è stata, stesso interno, stesso sistema di questo cazzo di ventola. Fatelo a Roberto se riesce a modificarla, perché è molto bravo. Ma è proprio le mette un riduttore di velocità, una cosa del genere, in modo che sia più silenziosa, capito? E le valvole nuove, erano sporche, come è rimasto molto fermo, eccetera. Le ho tutte pulite con la trenina, asciugate bene con l'aria, che si asciugano col foam, ripiazzate, sa. Accendono perfettamente, non arriva tensione alla nudica completamente da buttare via, perché appunto l'amplificatore è rimasto tantissimo tempo fermo, capito? E quindi da sostituire la valvola, e solo lì c'è più di 100 euro di spesa di valvole. Quindi io per come l'ho preso, sai, non tengo problemi, avrei capiscono. Questa è quanto mi avevano detto proprio loro. Roberto gli ho spiegato, perché oggi più io quello grande che ho, che come forza è ancora più grande di quello tuo, di quell'altro, questo lei è acceso. Lei è acceso, io facendo sempre la macello guardia per tenerlo in stand by, eccetera, può capitare, magari mi serve un po' più di fatte, e ce l'ho già in funzione, anche perché se io l'uso non vi accorgete, la radio rimane sempre uguale. Questo è però anche nel senso che c'è 100 watt d'ingresso. E Roberto stesso non mi ha messo c'è 5 valvole, capito? Non mi ha messo la... lui praticamente cosa fa? Le mette un riduttore di velocità, che può essere una resistenza, qualcosa del genere, però modifica il... riducendo la velocità della regola, quindi non è che la riduce così in stand-by, riduce praticamente al momento in cui non hai visto come fa il tuo, anche il mio è così, tranne questa è diretta la regola. Però qua, quando ha ridotto la velocità, gli ha allungato il piantone, quindi ha avvicinato la ventola più alle valvole. Ok, io le valvole, quindi gli arriva più aria, la modifica che ho fatto in questo. In questo che gli ho mandato, lui mi ha detto che sul relay, praticamente, quando tu schiacci il BTT, no? Ti ricordi che aumenta la velocità, aumenta, ecco lì il casino, perché in stand-by la velocità va bene. Il problema è quando tu schiacci la portante che aumenta la velocità, ecco lì lui mette un riduttore di velocità, in modo che quando tu schiacci il PTT e lei va in operate, no? La velocità rimane costante, quindi si attenua il rumore, e lì la modifica la fa essa, non sullo stand-by. Ho capito. Sì, perché è tutto un relay che eccita, diciamo, la velocità, diciamo, della valvola, e tramite un relay che quando schiacci, diciamo, la portante, il PTT, attivi il relay e, diciamo, e lui parte la velocità, perché stand-by non si sente, capito? È completamente silenzioso. Addirittura mi aveva detto Carlo che o lo metti distante, diciamo, o ci fai una cassa ermetica con un tubo di aspirazione di aria e poi di aspirazione, diciamo, dalla ventola. Ti aspiri dalla ventola, butti dentro, poi un altro che prende e butta fuori. Infatti la gente, questo è quello che vuole, una centrale termica. E dice, se vuoi ridurre, diciamo, la rumorosità, è questo, perché se no devi usare un macchio normale. Quando arriva il mio, è stato Roberto, ce l'ha già a casa oggi, perché gliel'ha portato il collega Massimiliano. Ho già telefonato, l'ho già visto, l'ho aperto, ma è stata una grandissima stronzata. Fare la modifica e poi c'ha alcune cosettine da cambiare, c'ha un diodo, un altro condensatore che non ho visto, e poi mi cambiare lì perché lo vuole mettere più grosso, per avere più, proprio per fare quella modifica lì, mi cambiare lì, le fa la modifica per quando eccita il relay, per dare la seconda velocità alla ventola, le mette un riduttore di velocità, quindi automaticamente rimane più silenzioso. Quando vedi come ha fatto il mio, lo diamo a Massimiliano, glielo manda, è un capolavoro, capito? È un capolavoro, molto bravo, molto ordinato, pulito, no? Non ci sono problemi. È quello che ha modificato il mio 1231. Immaginate che un 1231 normale batte 90 watt, il mio era 200, con 25 watt di pilotaggio. assolutamente, capito? Tutto qua. Va bene, chi ci è rimasto in questo canale? Allora, un attimo per uno, senza spingere, venite avanti. Bene, quello io così vi saluto lei. Ascolto, guardando allora con la persona là. Niente, quando ho trovato al momento, veloce, sempre sul coso, ce n'è uno a 6 da 2 kW, a 6 uscite un ingresso, per 81 euro più le spese di spedizione. Bene, va bene, intanto siamo lì da 50 a 80, non è che 30 euro ci fanno vedere chi ne puzzi. L'importante è che sia un buon commutatore d'antenna. A 6 meglio ancora per me, perché così ne elimino uno, faccio quello a 3 per gli HF e quello a 6 per i baracchini, e sono a posto, sono tranquillo, capito? Se tu ritieni, io sai, mi fido di te, se tu ritieni che vada bene, per me non ci sono problemi. Stasera faccio anche un giro di rete, vediamo un po' se trovo qualcosa, questo su Media Globe non è un giocattolo, ovviamente, 2 kW è bello, c'è cioè, tutti i cavi da una parte, anche l'ingresso non è dietro, tutto quanto è qui attaccato, tutto il comutatore, ecco, mi servirebbe una cosa ben fatta anche, aspetta se trovo, dico anche la marca, allora, G. MFG. MFG è una cannonata. Io ho un ascoltatore d'antenna dell'MFG, c'è un variabile allucinante in porcellana. Sì, va bene, per me va bene, MFG va benissimo. L'MFG è la stessa marca di quell'accordatore che ho io qua. Esatto. MFG non scherza. FG è la miglior casa costruttrice di accordatori. Quello che c'ho io, 908, cioè tu uguale al mio ce l'hai, no? Quella scala incrociata. Sì. No, aspetta, il 9, vabbè, non ce l'ho qua adesso al momento. 925 mi sembra, comunque anche incrociati, dai. E quello che avevi portato qua una volta, lo essere giusto, cioè quello lì. Uguale a quello mio, 900, 1908 mi pare, tu hai quell'altra serie, ma sono uguali. Già tre ingressi d'antenna, eccetera, eccetera. Molto bello. Bello, ma serio, c'è un variabile allucinante. Ma molto bello. Sì, va bene, per me va bene. Quando si parla di MFG, te l'ho detto, MFG, Diamond, Revex, tutte quelle marche lì che sono marche professionali, qua non è che posso attaccare Inter, che ZG sono per basse potenze, commutare una radio, due radio, ma quando già ne hai tante poi hai bisogno di qualcosa di più serio, capito? Per me va bene quello, Fabio, non sono problemi. Chiudo adesso, questa settimana vediamo, facciamo un giorno rete, ci sentiamo, tanto non effetto, ascolti perché Sandro quanto vuoi ti interessa. Va bene, vai, l'importante è che tenga Fabri. Un altro poco professionale, MFG 17.0, con l'antenna 6.000, un kilovolt, quindi 2 kg, da 8 a 30 mega, attacco PL, sì. Sì, va bene, poi magari se con qualcuno le prende, magari riesci a farti fare qualche sconto. Beh, due ne stiamo prendendo, cioè, non so, pure vediamo un attimo, anche perché ho un po', mi serve a 4 a me, non so se lo prendo io, quindi adesso vediamo. Perché se arriva a 3-4 credo la di lui, non lo so, adesso vediamo, e comunque vabbè, non ci sentiamo, adesso vedo un po' che vi faccio sapere, ma tanto le spese di spedizione così dividono come sempre, quindi mettiti in conto intorno, esagerando intorno meno di 90 euro, verrà 87-88 più o meno. viene a costare? Questo è grosso, è professionale, è vecchio, ha 81 anni, non si è inglese, è in uscita. Poi ci sono come quello che ho preso e ho trovato su internet. Poi non c'è disponibile adesso su Mediaglobo, bisogna chiedere di quali siano disponibili. E sono qui a contattare le altre che corre con un kilowatt, ma cioè io ce l'ho uno qua, ed è bello, veramente fa proprio bene. È quello che costa, 10 euro costa, questo sarebbe l'ideale, infatti di questi anche sarebbe l'ideale prendere almeno così non mi dispiacerebbe, anche se tu non mi serve tre voli perché potrebbe servire. Ho detto proprio. Roger, ma si vede l'immagine di questo camion di cui mi stai parlando? Sì, vai su Mediaglobo, metti commutatori, e li vedi tutti. Adesso guarda, sono, sto entrando. Ma il bello non scatta, poi ci sentiamo e all'inizio se facciamo un ordine comune e via. Fabrizio, quindi hai mica visitato, perché mi sembra che io adesso non ricordo bene, sul sito della Negrini, Negrini Elettronica, della Diamond A4, mi sembra che costavano una stanzata. Negrini? Negrini Elettronica, Torino. Negrini Elettronica, ecco qua. Vediamo, lasciando qua, mettete tutto, così questo è interessante, vediamo. Vai, trasmetti tu, non ti fa l'imbroso, non mi fa l'estaglio. Vediamo un pochettino. Ehi, già ce n'è di contattori, non c'è problema. No, questo dell'MFG è molto. È molto buono. Poi già ce ne sono altri, però. Va bene, va bene. Gianni, riprendi. Non mi dici. Ha perso il microfono, Ogni tanto perde il microfono. Signori, io vi lascio, che domani mattina il gallo canta presto. Dai, vi lascio, ci siamo alle prossime. Lavoro. Fabri, vedi un pochettino, dai, fai un giro, vedi un attimino, se magari trovi qualcosa da spendere meno o che cosa, vai, tanto ci sentiamo. Vabbè, ci sentiamo, faccio una ricerca anche se sto guardando qui, faccio una ricerca e poi anche in cosa stavo andando, ti trovo meglio prima e vediamo di fare. Non c'è problema. Va bene. Ha dimenticato di mezzo. E cosa è tu? Ho dimenticato di tenere che c'ero. No, pensavo che ti eri allontanato, chi è che ha detto che si stava allontanando? No, non di certo. Allora mi è sfuggito dalla mente. Riprendi. Che la fa? Come va per l'altro? Niente, ero sdraiato perché sono un pochettino stanchino, quindi vi stavo ascoltando lo stesso. Ehi, siamo tutti così, non c'è problema, tanto è troppo bugiardo lui. Ciao Sandro, ci sentiamo, Fabri, quando vuoi passare non c'è problema, tanto Sandro passa sempre qua, alla vicina con la radio, la metto lì sotto la scrivania, quando passa Sandro se la prende, non c'è problema. Ok, Tino, vuoi riprendere? Dai, va bene, ti mi sto guardando dei pezzi che mi servono per fare quel compressore qua, vedo un po' se riesco a ordinarli via internet. Ci sei andato da Los? No, anche perché non ho avuto tempo, però oggi ho fatto la saldatura per il supporto del motore, l'ho già piazzato, adesso mi mancano giusto la valvola di sicurezza si chiama, il cacchio era, un cacchio si chiama, il passo l'ho fatto. Non ho capito, ma su internet già trovi tutto, non c'è problema. Gira. Ho visto, avevo sfogliato anche un po' il catalogo di Bricoman. E li trovo anche lì, questi tizi sono, non costano neanche tanto, quindi io direi tra ordinare e fare, mi faccio una scappata domani, si è aperto, e vedo un po' se riesco a trovarli, eh. Infatti, tanto se stai lì a ordinare e fare, ti è la stessa cosa. C'ha sempre le spese, invece lì è diverso, capito? Vabbè. Ok, Fabi, ma stai chiudendo? Sì, mi sono creduto anche una volta, un po' non stavo da solo, sono andato a freddissimo, non è ancora qui, non c'è tutta la mia procedura, però allora a letto, quindi ho quasi messo tutti chiuso tutto e inizio a fare la fase di torneo per uscire a dormire, no? Stordimento. Io non ti appoggio il capo del cuscino, sono qui a dormire. Sono qui a stordito, va, figurati. Beh, un video perché se non andare un po' per il video, devi fare finta di niente, mi devo pulizzare lui, non è vero che non è diventare questa. Adesso mi sto prendendo anche il PC, arresta tutto, adesso mi sto sì, io tutto vado a letto, allora sul divano pure a letto e mi leggo la Bibbia. Via. Va bene, dai, allora ti saluto quando vuoi, a casa non ha supporto neanche domani, ma mattina lo farò anche io, poi domani pomeriggio sono a casa, quindi se vuoi passare sono qua, non c'è problema. Ok, Antonio, riprendi. Ma ciao Fabri, ce la risentiamo. Comunque stavo dicendo che quei pezzi lì, io ho il catalogo di Bricoman e ci sono tutti lì, tanto male che scende, c'è lì la Bibbia. Sì, scusa, intanto ve l'ho detto, non hai detto, ve l'ho detto, chiedo. Il catalogo di Bricoman è una Bibbia. La Bibbia, non sto scherzando, mi sto leggendo la Bibbia, cazzo, pensa un po', sto finendo il Vecchio Testamento. Ma intanto non è così che te la salvi l'anima, con tutto quello che hai fatto in gioventù, capito? Altro che quello ci vuole, prete ti devi fare. Pensa un po' che l'altro giorno con le tardi stavo scaricando, non so cosa ho trovato la Bibbia, no? E l'ho scaricata, però me l'hanno guardata, e ho letto la Genesi, e dopo lì dovevi comprarla, che l'ho comprata e me la sto leggendo tutta, no? Perché sto sempre diventando più atto, mamma non ve la leggo e per dirate. E dopo i fumi adesso sono fatti proverbi, adesso così, sia i proverbi sono arrivato. E comunque il Vecchio Testamento adesso per finire, poi iniziamo il nuovo. Ma sono curioso, non è da curiosità, me la sto leggendo, però sto diventando sempre più alto, ma non vado avanti. Ma guarda che se tu guardi negli alberghi di solito la Bibbia, appunto l'Antico Testamento, è sempre all'interno del cassetto del comodino, la mettono sempre. Ma non mi ricordo che parlano degli anni 30, che a casa del bussuario ci vado spessissimo, non l'ho mai trovato, cacchio, giusto qualche guida peccanosa posso trovare. Negativo, guarda, e invece ti dico che è tuttora in uso quello di mettere, proprio perché non è attinente a una religione cristiana, ma l'Antico Testamento può abbracciare tutta una serie di religioni. La trovi tutt'oggi trovi la Bibbia, in molti alberghi la trovi, chiaramente non in quelli due stelle dove vai tu insieme alle signorine, capito? Quelli no, lì trovi la guida dei Playboy. diciamo. Allora, ti conosco benissimo, è inutile parlare con le religioni, eccetera, anche Gesù per i musulmani è un profeta, non lo vedono come lo vogliamo essere un profeta, la conosciamo buona parte della storia, però io non, per dire comunque sotto le 3 stelle non c'è, nemmeno le cerco alberi 4 stelle quando vado, se non quando va male 3 stelle, e ti posso dire che è tuo sei, ma spesso mi capirei andare, eppure io lo metto qua toccato, e cazzo mai tu. No. Negativo, guarda, negativo, quello che stai dicendo non è esatto. È sempre all'interno del cassetto del comodino, quasi sempre. Ho trovato i diritti guidata camminose, ma anche con Bibbia non l'ho trovato, vabbè, la prossima volta che vado mi scrivo anche ai cassetti, in genere rimango poco 2 giorni, in genere non più di 2 giorni, e quindi non è che sto a frugare, però frugo, se non altro mi cazzo pure. Aspetta un attimino, te lo sto dicendo in diretta, guarda. La Bibbia nel cassetto degli hotel in USA, in tutti quelli americani c'è, e anche quelli italiani. Prova a cercarlo su Google, metti Bibbia nel cassetto dell'hotel. Ma abbiamo fatto un bando di precino con tutti i numeretti. Ma quindi non c'è il telecomando per acquistare i film, i cartoni animati, buio, adesso io penso un po' meno in quest'ultimo periodo, ma fino a 2 o 3 anni fa, tu, almeno 5-6 volte all'anno mi capitava di uscire fuori, o per le fatiche o cose. Non mi è mai capitato. Mi è capitato l'ultima volta quando ero fuori. Ma non era molto nemmeno. No, quest'anno no, fino all'anno scorso mi sembra. Eppure non è trovato. Io non ho mai trovato. Sarà che non vado a trovare nei cassetti, non me ne frega niente, ma. Significa, magari non l'avevi mai cercata, non ci hai mai fatto caso perché non lo sapevi, tu prova a scriverlo anche sul motore di ricerca di Google, Bibbia nel cassetto degli hotel o degli alberghi, degli alberghi, guarda quanto te ne esce, oh. Vabbè, mi piace quella leggere un po' di pagine di famiglia del sonno, dai, lascio andare a mettermi domani a riflettere di te al 5 metri, non mi suona la sveglia, io sei pittina, che buonanotte a tutti. Buonanotte Fabio. Ciao Fabio, buonanotte. Ciao Fabio, buonanotte. Epa, non è meglio appoggiare un libro di che ne approfitto, tanto non ho trovato quello che volevo, vi saluto, nel caso ci sentiamo domani, ma devi lavorare domani. Sì, domani le feste sono tutte mie, sì. Domani sono liberi tutto il giorno. Sì, ma dico, sei a casa o devi andare? No, non sono liberi ad uscire per forza. Devo fare tutto il giro di controllo e fermare tutti i registri e poi non sarò a casa prima di mezzogiorno e mezzaluna. Vabbè, allora niente, pensavo io a casa, sarei passato a farti visita. Sì, mi fa piacere, non c'è problema. Se sei in giro passo domani sera, sono a casa e fatto. Non vado a nessuna parte, domani mattina devo per forza andare a letti, 9:07, infatti adesso fa un po' chiuso. 9:07 domani mattina, prendo la furgonettina e faccio un giretto, prima il caffettino, poi faccio un giretto. Ma se c'erano i casini di stamattina che stava piovendo, è sempre una decisione, senti. compagnie ha fatto fino alle verso le 9, dai, e allora è finito. Io sono arrivato a Nubi stamattina, che erano le 7:30, 8 meno un quarto, e stavo chiudendo di 8, fino almeno alle 10:30, 11, perché poi ho fatto, sono sceso a Martis, sono andato a Evo, a Chiamonti, ho fatto il giro dall'altra parte, sono andato a Siri, Buzzi, a Evo, e poi sono ripassato a Nulvi per vedere se era tutto a posto, e non stava piovendo più, ma era già l'ora di pranzo, quindi, ma ho visto le portate, dai misuratori di portata mi sono accorto che c'è un'entrata abbastanza di acqua, quindi speriamo che non abbia creato problemi stasera, ho visto che poi non ha piovuto più, quindi domani dovrebbe essere tutto a posto. Bene, ok, dai, già ci sentiamo, ti sto nel bene. Saluti a casa, quando vuoi sono qua. Di mattina non mi trovi quasi mai, ma di sera sono sempre a casa. Meglio, vabbè, vai. Ci si riascolta, riprendetevela, divertitevela. Ciao, buonanotte a tutti. Sì, no, ci siamo alle prossime. Ciao. Ciao, ti ciao, buonanotte. Anto, anche io ti saluto, vai. Spengo tutte, ma vado a nanna. Ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti, anche a quelli che stanno ascoltando. Ciao, ma allora io ti seguo, dai. Oh Giulia, ma domani per fortuna ce lo libero. Vabbè, buonanotte. Buonanotte, ciao. Ci sentiamo, ci aggiorniamo domani. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao anche a Claude e a chiunque fosse in ascolto. Ciao, ciao. Ciao. Allora, a proposito, passato, un'ultima cosa. Passato. Ciao, ciao. Passato. Dove sono? Dove ci avete? C'è di piove. Mi ando bassa Isa. Dice che convivere basta. Sto prendendo le antifiammature intorno. Non mi vedi che non ci voglia di niente. Sto qua in radio perché c'ho tutte le comunità per non stare sempre buttato nel salone. Ma non ce l'ho grinta, non ci voglia di niente. È giusto per stare in compagnia, per scambiare due chiacchiere, la facciamo anche a muovere, sono sempre con la testa appoggiata alla poltroncina, capito? Scappa, non chiedi qualche cosa, che ti danno qualche sostituto, no, non puoi chiedere. Benissimo, mi hanno aumentato gli impianti, mi hanno aumentato il giro e sono da solo, capito? No? Provato a Pasqua, a Pasquetta, oggi, domani. No, per il momento non c'è sostituzione, devono mandarla a Cagliari, quindi mi hanno affiancato uno a darmi una mano, ma non lo posso lasciare da solo, capito? Un casino. Vai, vai a dormire, Clara, ti saluto, sono poi, ti trattengo troppo, No, ti ho chiesto solo se ti era passato, ma ho visto che non, ho sentito che non ancora niente. Ok, dai, ce la risentiamo. Ehi, ciao, Anto, ciao. Davvero, ci aggiorniamo domani, ciao. Tu fuori, sì, domani. Anto. No? Parato. Sì, ogni tanto si allontana. Vabbè, ci sentiamo, ciao. Ciao. Capito, vuol dire che mi senti? Cos'è il re? Franco da Sosso. Lorenzo, Franco da Sosso, che c'è che lei? Ciao, dottor. Volete vedere il caso? Prova il caso. Io tra 10 minuti. E sistemando alcune cose, dunque, mentre facevo, ho fatto un po' il giro, ho beccato a te. E a tu chiudere devi. Chiedo se devi chiudere. Perfetto, d'accordo, sentiamo tra un poco, dai, sentiamo una cosa veloce e arrivo.